settembre del 2000, entro settembre del 2008, loro ci stanno tentando a recuperare almeno il salvabile, ma pigliarsi di là per prendersi le spese, per prendere il capitale che ti hanno dato. Stanno chiudendo con 500 euro, quello è il capitale, le 400 sono interessi. Ok, allora loro stanno cercando di recuperare il capitale prima che la pratica vada archiviata, perché quella pratica a settembre del 2008 va archiviata, non ti possono più cercare perché sono passati 5 anni, quindi stai attento, ci stai buttando i soldi, digli andare a cagare. Ti comincio era 2001, ma c'è 2003. E vabbè, comunque sia, è scaduta. Maledetti. Se la buttiamo in magna, ci manda da me. No, ci manda in magna da me. Io manco questa già ti sguarda. Manco. E vabbè, comunque, mo vediamo. Mo vediamo un po'. Se ci riesco a fare quello che devo fare, gli do il via. Se no, se la mia includete tutto. Ma cosa, ma non è un prezzo personale? Quelle carte che mandano a casa, che se la vuoi attivare con 1000 euro, cioè, quelle lì sono? Sì. Oh, Luca, lascia perdere, noi eravamo così covranti. Che già lì c'è una truffa, capito? Già quella è una truffa, perché tu non hai, cosa hai firmato? Hai firmato forse qualche foglio e gliel'hai rimandato? No, non l'abbiamo fatto, ma sta carta su... E su questo, cosa c'era scritto? Se la volevo attivare, c'era una disponibilità di 500 euro. Però, su questi 500 euro, cazzo, era... Guarda, ho fatto una... Sono tirato la tappa e qui da sopra. Ho fatto una cazzata più grande di me, credimi. Ma manna. Le volte l'ho attivata, io ho fatto il primo... Ero preso i primi 50 euro. Cazzo, poi da questi 50 euro, io voglio dividere da questi 50 euro, minimo 75. Era un'usura quella roba, era un'usura, Luca. Io pensavo che tu avessi stipulato qualche contratto con qualche finanziaria di persona, davanti a una scrivania, firmi, documenti, bim bum bam. No, ti vasi nuda, lì c'è una truffa bella e buona, capito? Perché tu non hai nessun titolo a me. Tu mi hai mandato una cosa, me l'hai proposta tu, me li hai dati tu questi soldi. Io non te li ho chiesti, io me li ho presi. Quando ce li ho te li do, non ne ho, non te ne do. Ti metto una faccia nel culo. E attenzione, ti dico anche un'altra cosa, con molta certezza. Perché stavano parlando proprio l'altro giorno in una riunione che avevamo di lavoro, di queste cacchio di... per gli acquisti di stipendi eccetera, poi ti spiegherò. E praticamente quando succedono queste cose tu non hai accesso. Se tu dovessi aprire un conto corrente o chiedere un finanziamento, te lo danno, ok? Però non hai accesso alla banca dati, quindi non ti danno il manco, ma te blocchetto degli assegni. Attenzione. Però se tu vai a chiedere un prestito con la busta paga, oggi come oggi, nonostante ci sia questo problema, il prestito te lo danno, però vogliono l'addebito in conto. Tu non puoi più pagare con conto corrente, non puoi più essere in possesso di carta di credito o di bancomat. Questa è la legge, capito? Però se tu sei un dipendente di un'azienda e chiedi un prestito, a te te lo danno il prestito con addebito in conto corrente. Il conto corrente te lo aprono, però non ti danno né blocchetto di assegni né bancomat. Devi andare allo sportello a prenderli, se i soldi ci sono. Se non ci sono, non puoi toccare niente. Questa è legge. Ma io sapevo lasciare incasinato, mettere, non per altro, e poi non parliamo di verbali. Lì c'è l'altra cosa, lì c'è, quelli sono beni dello Stato o beni del comune di appartenenza, dipende, se polizia stradale, Stato, se sono vigili urbani e comune di appartenenza. quello te lo mettono nella cartella delle tasse, quello è un'altra cosa, quelli li recuperano, quelli non c'è Cristo, però loro non hanno accesso a nulla, soprattutto in questo caso tuo, io ho capito che tu hai stipulato il contratto con qualcuno, ma di queste carte che mandano, sai che hanno niente la Bruciardi, ma Bruciardi non ti ridico, non ti dico, Bruciardi, e ti mettono la faccia nel sedere per parlare nel pulito. Perché loro non sono nessuno, capito? Tu a me mi proponi una cosa, ah perfetto, dammeli, quando ce li ho te li torno, perché tra l'altro se tu leggi bene quel foglio loro ti hanno mandato, se ce l'hai, a me me l'hanno mandato una volta, poi ce l'ho buttata assieme alla carta, tutto, l'ho tagliata la carta e buttata via, perché c'è tag mi sembra, tag cosa cacchio scrivono, praticamente gli interessi di apertura sono il 17%, gli interessi che tu devi tornare sono addirittura oltre il tasso consentito dalla legge, prova a leggerlo, vabbè. Tu immaginati che per 50 euro per un mese te ne chiedono 75, per 100 te ne chiedono 155, ma buffo, non è o pagare mai il biliardo, ma lo figliolo di un sindaco di Bolave, ragazzi, che va via la prima elementare e lo vuoi avere assessore, ragazzi. Allora ci provano, c'è gente che cascata, io ridem, sono cascata, come un salame, cazzo, lui aglia, mamma, purtroppo sono cose che capitano, ai migliori, ai peggiori, vabbè, adesso vediamo qua, vediamo un po' che riusciamo a fare, per signorci da Miglianini. In come le possiamo, diversamente non si può fare, io no. Ripeto, se avevo la possibilità di mutarvi, no? Come dovrei interessare un mutato, domani magari deve essere, che lo sa, mi servono dei soldi, interessatemi, quelli stavano dicendo, ecco, non lo so, e anche mamma non l'hanno fregata qua, maledetta che quella tipa l'ha fregata, è in pieno pure, piede a vacca filmato, grazie, e si è fottuta con le mani sue, e poi vabbè, io non sapevo la cifra di quant'era, ma poi questa cifra qua ha cambiato, grazie, di tutto fa una cazzata, fa la micidiale qua, io dico solo cazzo 1500 euro, non dico altro. Un bel ce n'è di questa gente che ci prova, soprattutto le persone anziane e soprattutto le persone di buona fede, nel senso buono, perché io capisco che tu l'hai fatto per male, purtroppo te li hanno presi, li hai consumati con la speranza di poterli restituire, no? Si spera sempre quello. Se poi uno ha un problema, tu non mi devi più beccare a me, a chi non te ne do, non te ne do. Guarda, la cosa più preoccupante è, lo conosci anche, te lo dico quando ci vediamo, è successo proprio a un'altra persona, quindi la Ducato mi pare ha una banca, non so dove, l'unica, poi che è l'altra, vabbè, tutte queste trozzate che ci sono, Tagos, questo Compass, sono tutte affiliate a banche svizzere, Deutsche Bank, dici qui e dici là, l'unica banca che ti può dare mattana, perlomeno chiamiamola banca perché la Finomistica è una banca, è del gruppo del Banco di Sardegna. Cosa succede? Se tu avessi avuto la carta della Findomestica e bruci la Findomestica, la parte che fa direttamente all'ufficio legale del Banco di Sardegna. Il Banco di Sardegna, siccome è una banca a livello nazionale ed è costituita soprattutto in Sardegna, riesce a recuperarlo il tuo credito, perché ha accesso alla banca dati personale. Se tu dovessi avere un conto corrente al Banco di Sardegna, te lo mettono in poso, come si dice, in morosità, dalla morosità passa in sofferenza, così chiamate, non le sto inventando io, sono cose scritte. Una volta che il conto è in sofferenza, loro ti recuperano il credito, perché ti fanno, ti ignorano un quinto del loro stipendio. Solo il Banco di Sardegna lo può fare, solo il Banco di Sardegna, con la Findomestic. Le altre banche sono tutte banche affiliate in Svizzera, in capito, è tutto denaro che arriva da fuori. La Findomestic lavora con i soldi del Banco di Sardegna e solo il Banco di Sardegna riesce a recuperare il credito, o immobiliare o non immobiliare. Se tu sei un dipendente, anche privato, riesci a farti il pignoramento di un quinto dello stipendio per recuperare il loro denaro. Pulito, pulito, col tasso giusto, legale e tutto. Questi sono dei pellegrini, ma pellegrini, però, per carità. Stavo convincendo, non è che se ne è di quelle cose, cioè che mi portano a lavorare fino in tribunale, queste cose qua, poi aspetta, invece di essere tot, ero un po' tot, e così via, non è che, infatti è detto tutta quello che dovevo dirle, non è, cioè, stai lì a rispondere niente. Ma io tu muri fatti me, cioè i fatti di casa, ecco. Nuda. Dice lei non è frega niente. E come hai detto poco fa della luce, no? Se tu la luce non la appari te la staccano. E lì mi ha detto, la prima volta mi ha chiamato, ma lei vuole, perché non mi hanno staccata la luce? Eppure non è il problema. Per lì, ma qua la luce non la devo staccare, perché la luce serve per tutto. Perciò, come fai? Ci devo lavorare, che faccio a lavarmi, a lavarmi da quella roba, non dica lì. E poi lì, ma comunque si può rimanere senza la luce in bassa, ci può rimanere. E vabbè, io così non lo faccio. Come si capita, la possibilità di pagare la luce va bene, cazzo, non la diviamo di mago, ma va qua il culo, quel poco che c'è si paga, perché me lo fa staccare a dare di a te, no, ha detto, non se ne parla neanche, guardi, poi la prima volta gli ho detto, guardi, mi creda, non so come fare, non sto lavorando, non riesco a trovare lavoro, e guarda, mi vuole mandare in tribunale, ma c'è una faccia quello che vuole, a me no, ma in realtà io non possiedo niente, perciò non è che potrei fare qualcosa, mi dite a casa mia dove il prete è letto, la TV, venite, non c'è problema, ma vabbè, ci sentiamo la prossima volta, mi ha detto, guardi un po', ci pensi in bene prima, e poi mi fa sapere. Domani ci vediamo, perché mi fa prendere male questa cosa. Se tu sei disposto a fare una cosa assieme a me, tutte e due, assieme a me io ti dimostro, ma te lo dimostro davanti a te, che diventa piccolo, piccolo, piccolo lui, capito? Cosa gli hai detto? Che c'hai fratelli tu? Perfetto, bravo. Allora, quando ci vediamo, mi dai quel numero di telefono? Mi fai quell'affare cinese anonimo per il mio? No? In modo che non sappia chi l'ha fatto la famiglia. E poi davanti a me assisti a una cosa che tu dici, tu sei pazzo. La faccio, ma lo sai che cos'è, maschio o femmina? Madonna, ma signora. La faccio piccolina che lei non ci sta neanche nel telefonino. Capite? Perché con la prossima volta che lei ci permette di chiamare a mio fratello, io non ho neanche bisogno di andare ai carabinieri, perché qua al telefono lì. Non si permetta mai più, mai e poi mai più, capite? Se lei ha veramente qualcosa da prendere, faccia un decreto esecutivo e poi l'accompagno io a mio fratello in tribunale. Vedrai che mi chiude il telefono in faccia. Ti faccio assistere a una cosa che tu ti ringhi di ridi. Io lo comprendo, se ne comprendo io, cazzo qua. Se ne comprendo. Ma poi ragionava per i fatti suoi, diciamo le cose così, tanto per dirle. Inutile che io stavo lì a dire, ma non sto lavorando, non sto lavorando, detto, io ho lì 100 euro, gli dirò, gliene posso dare 25, ma leva, non basta, non ha detto, allora nulla, non gliene posso dare, allora se li faccio apprezzare, non ho nessuno che mi presta questi soldi, cazzo qua, non ho cazzo qua, tutte a me capiteggiano, tutte a me, ma ti detto, neanche 50 euro li posso dare, se li vuole, io, ogni mese 25 euro farò un sacrificio, glieli posso levare, non c'è problema, ma non bastano. Noi fui, ma a tutti i dini già ne parliamo in persona. Io, scusando che sta ascoltando, ti ho solo dato un consiglio, perché la realtà è questa, è una cosa proprio che è già stabilita in tutta Italia. Purtroppo ci provano, sono delle agenzie, ti ripeto, di recupero crediti che provano a recuperare il denaro che purtroppo la banca o la finanziaria madre non può recuperare perché ha dei termini di legge consentiti dalla legge per poter stipulare i contratti e poterli recuperare, ok? Anche se tu sai bene, no? Ci sono le tabelle. 12 mesi, 24 mesi, 60 mesi, adesso stanno allungando a 120 mesi, solo le banche come mutuo, i prestiti personali sono minimo in 5 anni, minimo perché sono in 5 anni, la parola stessa te lo dice, perché se tu nell'arco di 5 anni io riesco a prendermi almeno il capitale, sono già andato bene. Se tu nell'arco dei 5 anni, entro i 5 anni, a me mi bruci, posso ancora cercare di romperti le palle. Ma se io te lo do in, per dire, anziché 5 anni, te lo do in 7 anni, e 2 anni non ti ribalo, tu a me mi stai buono, la faccia a me severe, perché non puoi farmi nessun decreto ingiuntivo per legge, perché i 5 anni della stipula del contratto sono terminati, poi vai in prescrizione, gli altri 2 anni te li brucio, non mi fai niente. Attenzione, se non hai niente, se hai qualcosa da prendere, solo il tribunale te la può prendere, non uno che ti telefoneggia, che può essere l'ubbigliolo della ziracca di Gamboni che ti sta chiamando, tu non lo vedi, non sai chi è, io ti chiamo, signore Luca, sì, sono dottore, mi dica, appartengo a questo gruppo di la banca, la Ducato mi ha dato questa cartella per questi soldi del re, cassi, gatti conosci, tu a me al telefono non mi puoi dire queste cose, me lo metti per iscritto, mi mandi una lettera scritta o mi fai un decreto ingiuntivo di recupero, allora ne possiamo parlare davanti al giudice di pace, fai un piano di rientro scritto, se no il giudice di pace ti condanna, ok? Ma tu Luca, io Claudio, non siamo nessuno, hai compreso o no? Non siamo nessuno, dietro il telefono siamo tutti uguali, a me mi citi in tribunale e davanti al tribunale io dico le mie possibilità di pagamento, se il giudice mi accoda il pagamento a 10 euro al mese a chi non nasce, a chi sono un pellegrino, perché non lavoro, perché sono quello che sono, tu ti prendi 10 euro, ma solo il tribunale me lo può dire, tu non mi devi dire niente. Infatti un certo scelto, infatti così l'ho detto, io c'è possibilità ne ho poche, l'unica cosa è, cioè, i soldi che gli posso dare, l'unica cifra è quella, non di più, non posso assolutamente, non posso, ma non credo che le insiste, è inutile, senta che mi dice vuole 100 euro e poi iniziava, ma allora facciamo una bugia, è stato così, era un 900, poi ho iniziato, ma guardi, io le vengo incontro, ok? Però se lei fa quello che le dico io, fate, non c'è un problema, mi dica. E da lì è nato il 100 euro, da lì che mettete 100 euro, dai 900, ma la portata 600, versando i 100 euro, capito? E non l'ho ben nato. Se non lo penso, Ho detto, se li mandassi io li portavo tutti i 500 euro domani, cioè domani, lunedì, quando è. Cioè, mi ha lasciato 600 e gli ho detto, guardi, non lo posso pagare perché non avevo possibilità di recuperare questi soldi. Quando io gli ho detto che tramite questa persona, che qua non ti dico, non è personale, non è gente che conosci tu, non conosco io, boh, che gli chiedevo questi 500 euro, allora lei mi ha detto, va bene, ci sto, prima non ho 600, e mi ha fatto scendere 500 euro, però uno sopra l'altro, se no, se io gli davo 100 euro, erano sempre 600 euro. È il capitale che ti hanno dato, no? E dove gli, figurati tu, questo capitale che loro recuperano dal 2003 netto in contanti, e secondo te dove glielo devi portare questi soldi contanti? A chi li stai dando tu? Chi è questa persona? Infatti è quello. Ah, io Lu, cazzo, non c'hai il dito in bocca, Dio Claudio, no, vi credo che puoi fare una cosa del genere, ma stiamo scherzando. Sì, se io le do 500 euro, mi dica chi devo intestare, l'assegno non trasferibile e circolare. Mica, mi dirà, io entro 10 giorni, stia pur certa che le saldo il debito. Di contanti di rogo a te. E con quale ricevuta tu mi saldi il conto? Con che cosa? Con cosa mi dai tu a me? Io ti do dei quattrini, quitti. Tu cosa mi dai a me? Chi sei? Cazzo di conosci? Ma stai scherzando, Lu? Col giro delle truffe che c'è in tutta Italia, tu ti permetti a me di telefonarmi e chiedermi denaro contante, a me? Cazzo, ma è miliardo, parlo di una gudiata. Ma sai che ti gioco, infatti, a meno che con la filiale che c'è qua a Sassari, sicuramente mi faranno andare lì e lasciarmi lì, sicuramente, là. Sicuramente è così, perché c'è lei che lì mi dà un numero di conto corrente, 50, 30 e bla bla bla bla bla. Cazzo, io lo conosco lì, magari a voi sai che viene a Napoli, e a me continua mai a rompermi sempre le balle. Ah, vabbè, prima di fare... non lo faccio perché non ne ho, là. Non te lo sai bene, non ne ho. Però facendolo, faccio le cose... come si deve, ma mica cazzo mi rivando un po', è verso, glielo pago, no? Io ma devo essere sicuro dove vanno a finire questi soldi. Io voglio, mi devo rilasciare un foglio come io sto versando questi soldi, a chi li sto versando? Cazzo, usi manco io a dargli la usia e... ci vogliono garanzie per tutte le cose. Che uno sia in difetto, che uno abbia ragione, qualsiasi cosa va messa al suo posto. Perfetto, io ho la disponibilità, 1025 euro al mese, tu sei costretta ad accettare i 1025 euro, lo sai, per legge, perché io la buona volontà di pagare ce l'ho, sei tu che mi stai imponendo che vuoi tot, io tot non te lo posso dare. Quindi i discorsi sono matematici, no? Io ho la buona volontà di pagare, ti pago in base al mio reddito, perché io da quello devo vivere. Allora, questo è il mio denaro, 25 euro al mese, non lo accetti, portami in tribunale, non c'è problema. Ma avanti, al tribunale tu dirai, signore Belli, io voglio darle 25 euro al mese, quindi ho la buona volontà di pagare, non sono in malafede. Il giudice a queste parole, Gundana Edimi, hai capito? Perché tu non puoi chiedermi a me quello che io non ti posso dare, è una truffa, le leggi sono cambiate, non siamo più nel 1600, che ognuno chiedeva e otteneva quello che voleva, no, adesso le leggi sono cambiate, io vivo con 200 euro al mese, questo ti posso dare, perché il resto mi serve per mangiare, per pagarmi la luce, se no la notte non vedo per andare a cagare, capito? Quindi a tutti i dinni, però questa cosa la approfondiamo di persona, va? Tanto tutti quelli che stanno ascoltando avranno capito la situazione, che è come sto dicendo io, sono delle persone comuni che non hanno diritto di infastidire la gente, solo il tribunale ti può infastidire a te e importi a pagare un debito, tu a me non mi devi dire niente, arrivederci e buon viaggio. capito? Quindi appunto dimmi, poi mi farai avere qualcosa di scritto e poi te lo faccio dire io da chi di competenza se ho torto o ho ragione su quello che ti ho detto. Guarda, non fa una piega, Luca, non fa una piega, futti di. Ci sentiamo dopo che anch'io vado a mangiare. Mi ha chiamato mamma, ci sentiamo dopo. C'è qualcuno qua? Possibile, perciò sanno tutto di me. tu vieni dal 64, però me la trovi a essere lì, sono giovane, scagliamo nel tu. Sei giovane, sei nel 74, hai, ma comunque ci abbiamo mai 32 anni, no? Voi state sbagliando, ne ho qualcuno in più. Potete fare i conti male lì. Io voglio dire, i soldi già li conosce bene, ma so, eh? Che devo dare tutti. Però gli anni, ma so, sì, ti piace la Sardegna, sta piena di carrate e fichirindi. No, la verità ti piace, e non solo. Allora, sta lì. E non solo. Non ci sono solo i carrate e fichirindi, Sardegna, c'è anche altra cosa. Dolci, dolci. Ti piace la quantità zanza? Formaggio, e tutto c'è, salsiccia, peretta. No. hanno bruciato l'altro giorno, lo sto guardando, stanno preso tutte le straniere, chissà che devi venire a un film all'Anne dei Caraibi. Yeah, com'è? Di quelle grandi o di quelle fini? Salsiccione o la salsiccia? Faccio. Ah, è buono, per l'agriturismo. Ho pensato di trovare la valdizia per la cravatta. La riuso io. E nonno Bulo, si grattava la punta della cravatta dalle volte. Adesso non ce n'è bisogno di inventarlo. Sono qua, io mi sto controllando, a poco, oppure, sono qua, Bulgarie. Insomma, vuol dire che c'è taglia unghie. Taglia olio? Taglia unghie. Ah, taglia unghie. Mi faccio il giro anche io. Non so cosa stia facendo la Svizzera, riesce a vedere? La Russia sta vincendo 1-0. Russia Svizzera. Io qui, sì, mi sono detto in diretta, non è vero, sì. Se non si aiuta. Per la ferma pulita Spagna, maledetta, che è forte. Se pareggia. No, rimetto in diretta adesso. Chi vince rimane, chi perde esce. Beh, siamo ai quarti. Questa è l'ultima partita, credo, degli ottavi. Domenica iniziamo i quarti di finale. O no, venerdì iniziamo i quarti di finale. Ti immagino vincere l'Italia a casa? Ah, non lo so, non credo comunque che abbia molte difficoltà, vista la ripresa e come ha azzeccato la squadra, perché ieri ha fatto un partitone, eh. A parte, vabbè, il rigore ci spettava il diritto, ma c'erano tantissimi gol che potevamo fare, perché la Francia era in barca. Spero che, non dico che vinca, ma che faccia almeno il secondo posto, perché per me, la favorita è il Portogallo. Mo vediamo. E poi mi sono addormentato io. Ho visto stamattina la televisione che ha vinto l'Italia. Cioè già stava vincendo, ma mi cade più già il birro, ma pensavo che era pareggiato, che era fuori. E invece, tutto bene. Mi ha giocato bene ieri comunque. Sono andati a fare, ma sono una bella partita. E ieri siamo andati tutti a fare, madre di Dio. Ah, non so come ti dirò, per giocare andare a lavagliare. Ho troppo caldo, non sono qui in casa, ma... Uie. Allora male, ho fatto da bravo perché c'era anche Anna, come se no, guarda. Ho rubato la mia, me l'ho rubato, adesso la roba buona c'era che... ma attenzione comunque, la Grecia c'ha Ibra, due magie, e secondo me perde 2-1 la Russia, perché la Russia non c'ha grandi giocatori, potrebbe, ma dove io la segnato? Brecco dalla Spagna, 1-0, domenica vi facciamo il culo a Tana di Grillo. Avanti Spagna, 1-0, Italia 1-0, batte Spagna. Preso come mezz'ora va a venire con te questi buoni abbozzi. Qui c'è la Spagna, sabato. Dire che facciamo un gol alla Maradona. Così è! Sì, busca forte. Spagna, Italia 1-0, Caput. Dimmi Salvatò, dimmi Barosso, in mezz'ora fa vedere, non mi hai detto nulla. Ti arrivo se fanno così, 1, 2, 3. Sì, 9, quasi più 20, 9 e 15, la radio è fortissima qua. Santiago 9, la radio è rimasta invariata. Treviso, e cosa ci fai a Treviso? Io stamattina stavo parlando con uno di Milano, però era al telefono. Dai! E due, anche quattro, non so, di Trish. Non solo due, no? Due sono poche, solo. Ah, io ce l'ho, parlo sempre io, dai. Riprendi Natalino, Luca, Antonio, Pierpaolo, riprendete. Dai! Ah? Natalino, non so. Mi sono rilanciato. partita del Piero non è entrato, è uscito Cose, è entrato Camoranesi, la squadra è vigilare, però la tattica di gioco che abbiamo sviluppato con la Francia dovevamo sviluppare anche con l'Olanda, non avremmo perso quei 3 punti, oggi saremmo stati a 7 punti. Yeah. per 5. Io quando ti dico va bene, vai bene. Va benissimo, numero 20 pieno, radio super 5, bella, chiara, pulita, senza rumore, senza niente. Il 25 ce l'hai come picco, sei 9,20 di portante, quando parli va leggermente avanti, quindi il 23-24 te lo posso dare, non c'è problema tu, ma il segnale vero e proprio con la portante fissa è 9,20. Oppure lo vanno detto. No, io non lo vedo. Se la vedo casa tua così. Cava cava, ma cosa ho pensato che di tu? Dove c'è la cantoniera che va sotto i vidriati lì, c'era un trattore con una 2001, con una 2001 turbo. E stava mi pare il barra lì, cosa lo che morto, l'ho sparato, lo facevamo anche a fermarlo. Con una 2000 turbo, e poi tu non lo sai se lavorate in quella zona. In quella zona di la cantoniera sotto i vidriati, ce l'è presente, quella che esce da Porotto se va sotto i vidriati. Allora ce n'è più di uno che c'ha l'antenna del trattore. E sarebbe? 2001. Cos'è più importante della 2001? Vagabbo. Andava, mica c'è Antonio. Senti Antonio, rispondi, ti sta chiamando. Anda bene. Ti fa una bella voce e te dici così. Sei una gana. Non tratta nessuno Antonio, non te ne ricordo. Talino, ci sei? Buonasera. Buonasera a tutti. Ma se va bene? Diciamo che potrebbe andare meglio. E vabbè, ma quando a peggio mi dico così. No, no, non andrà meglio, ma è tutto giusto, è meglio di un bene. Così. E ti auguro che vada meglio. Passano sempre noi periodi brutti e poi vengono quelli belli. Travaglio un casino. E a me l'insieme. Paghi. Tu, quando ci troviamo, ricordami che ti devo dare un portachiave. Portachiave speciale. Bogabo. C'è un borsello, me l'ho messo dentro, sto lavorando. Che è riuscita a Marcolino in quelle palle, ma non fa a tenerlo lungo. Ehi. Oh, via. E la sua uscita l'altra di luce. Negativo. Stanco. Oh, non cosa riuscivo a fare. Pensavo che con Antonello fosse uscito. Iaia. E per Paolo Antonello? Non so. Al PC è. Cosa? PC. Non so che lo voglio usare, non lo so. Non sono qua, non so neanche. Già computer, non lo so. Iaia. E cosa hai fatto tu per quell'antenna? Cosa hai combinato? Nulla, cosa ho combinato? Tirata la vetta. Fatta. Ma è nuova? No, non è nuova, no. Così, ma la attacchiamo giusto per provarla, vedere come va, ma non posso lasciare quella cosa lì, assolutamente. Te l'ho detto io. C'è radiali lunghi. Sì, ma oltre radiale c'è un filo molto lungo. La Gran P era una signora antenna, prima quando non c'era la mantova, la Gran P andava alla grande, era una delle antenne migliori. Da Sirio, mi ha rubata quell'antenna. Dove? Mascherato, e beh. Sono Gianni Antonio, Antonio attenzione quell'antenna che è rubata. Sono delle macchie furata. l'ha rubata da un tetto, capito? Perché stava piazzata un'antenna, poi ha cavalcato il muretto e è passato sull'altro tetto e l'ha rubato l'antenna lì. Sì, vabbè, già funziona la testa. Di più funziona. Aspetta, la sua, l'ha usata una persona, ma non fare quelle cose. E anche adesso basta dare una pulita con la manacciaia, c'è le tappenti, la pulisci per la far uscire la luce, cadere quanti esci. Gappa gappa, oh, ma non la posso piazzare, ho già, è una cosa enorme. La mettete dove la vuoi? Dove la metto? C'è il deposito lì. Ma io il deposito non ci sono mai. Ragazzi, lo so, quando a te servirebbe un'antenna dritta e basta, che batta un bel dritta, perché con il radiale è un casino. Ma ce l'ho già. Infatti, da lì non puoi uscire, perché altri tipi di antenna lì non ne puoi mettere, come ti vai? Toccano al muro, poi salgono troppo. Basta, la mini si può mettere. La mini forse sì, perché c'è più spazio. Basta mettere una staffa lunga lì, una staffa un po' più lunga, ma la mini ti rende quanto quella che c'hai, se non di meno pure. Ma tanto male che mi tenga questa, va bene lo stesso. Già hai visto già che sul tetto cosa fa. Atta, Alessandro lo sentivamo 9,30 al quadrato l'altro giorno. No. Ed è piccolino. Sì, va bene, sul tetto va bene. Deve trovare posto per il radiale, se no se trova ostacoli si bloccano le onde, è normale. Ma già si difende bene anche nel balcone, non ti preoccupare. A Puglia. E infatti, già va bene lo stesso. Pagata. Se tu la poni la gomitura a Puglia, li metti un 4 metri di palo, l'attacchi, li fa un po' di altezza e cosa, già cantuisci. Io lo so. Io potrei mettere la cerola tra staffa a fianco all'antenna, ho messo una staffa che tiene il tirante. E quella staffa lì posso metterci anche, perché prima l'antenna la volevo piazzare da una parte, ho piazzato le staffe e poi ho deciso di metterla dall'altra. E non me ne sono pentito perché va bene. Là non lo so se andava bene perché c'era il palazzo di fronte, invece lì dalla parte dove l'ho messa va meglio, più larga come veduta. E certo, grazie. Chissà, quella lì è piccola ma sincera, però non dico che sia come la mantova, assolutamente, assolutamente no, però è piccola ma sincera. E il suo lavoro lo fa. Addirittura c'è scritto che la mettono anche nei camion quella lì. Sì, sì. A posto di mettere. Quindi anche il movimento va bene. Sì, va benissimo. Va benissimo. Legge fino a 500 watt. Sì. 500, vabbè, non gliene dai 500, gliene dai. Per esempio, se vuoi per più strappami, dai 400 e andate. Ma col capo grosso, che si rassichi sul vino devi sciogliere. Non ti arrendi. No, vabbè, ci vuole un capo buono, dai. Ah, cosa ti ne appuntici così. Se uno riesce a metterla su, per esempio, esce forte lo stesso, non c'è problema. Sì, anche con l'RG 58, mi pare che Alex abbia l'RG 58, ma esce benissimo. Anche a te oggi ti sentivo Santiago 5, figurati. Usilo. Tu mi arrivavi 4, 3, 4, dai, con piccola modulazione, a Puglia. Vabbè, ma con l'antenna sul tetto arrivo a 9,20, da Usilo. 9,20. Ha misurato Claudio. Grazie, l'avrei messa pure io sul tetto, non 9,20 ma almeno 9 sarei arrivato. Beh, normale, è sempre quello l'inghippo. Sì, vabbè, tu accontentati, chi ci accontenta vuole. Poi già nel mio piccolo mi faccio sentire, vai tranquillo. Sì, già va bene. Mascherados. Cappa, cappa, adesso sempre qua, vi sto ascoltando. Ok, quindi è di quelle gran pregole tipo vecchie, quelle con i radiali lunghi. Cappa, questa tipa era della Sirio. Vabbè, quanti radiali ha? Tre. E tre radiali. Quello con lo stilo centrale dovrebbe essere alto, forse era più di 2,5 metri lo stilo centrale. Sì. Radiali sono 2,75. Mi sembra che sia anche lo stilo così. Sì. Aveva tre radiali e lo stilo. Ce l'avevo io quando abitavo a Sacro Cuore. Ce l'avevo io quella lì. L'unico difetto che aveva è che facevamo dei TV con l'antenna. Ma sparava bene, arrivava uno vicino all'Alghero. Ma la ottima con l'antenna, sì. È veramente utile quella. E poi la metti sul terrazzo, la metti. Io, dai giù a parte che non è molto buono. Allora che cazzo via da fare? Vabbè, lo per vedere anche come l'ha fatta e tutto, la proverò così e basta. Beh, mettila sul tetto, che tanto non si vede piccolina, capito? No, lascia stare, meglio di là. Non toccare quel tasto. E se non la butta via va, maschera, perché c'è motivo, non la può mettere, se no l'avrebbe già messa. Se no non aveva buttato pure di salire là, ma non la gran pena, se avrebbero preso la mantova pure. Allora, cazzo, ok, là, quindi, ma quella, non è nuova questa antenna che ti ha dato, è usata? Beh, certo, ce l'hai maturo. Vabbè, allora puoi sta bene, la puoi piazzare sulla moto carrozzella. Aspetta anche io, non sei originale. Ah, guarda, la moto carrozzella, no, non va bene, no. Cazzo, va bene, non c'è l'altra la cabina. Prendi un paletto dietro e la piazzi lì. Tre metri di cavo e stai andando. Sì, ti pare facile, no, assolutamente. E magari li metti nel nylon e fai un ombrello. Sicuro. Questa, zia Marco, pare la moto spaziale, pare. Comunque quella grappa è ultima. Capito? Io ce la butto anni addietro, ma è ultima veramente. È semplice. Però vai, è una cosa impressionante. La mia era quella della Lema, le sparabombe. Era quella che si avvitava al tubo, praticamente c'era il tubo filettato insieme all'antenna, c'era, tu avvitavi il tubo al tubo filettato e poi il tubo lo incassavi in un altro tubo e l'antenna era pronta. E ti dirò che mi ha dato delle grosse soddisfazioni con l'antenna, ho fatto un bel di ex, di coso, solo che ti vuoi a nastro. Io con l'antenna lì c'ho ancora, dove avevo ancora buttato da qualche parte, perché facevano anche allora l'antenna era filettata per avvitarci il palo, però facevano anche un tubo di cosa sarà, 30 cm, una gamba, per poterlo utilizzare col palo, capito? Quindi avvitavi questo palo di 30 cm all'antenna e poi tutti poi sotto era una gamba per poter imbragare un palo, capito? Non lo so, io non so che era così. Ma io l'avevo proprio incastonato dentro un altro palo, l'avevo proprio incastonato dentro e poi fatto il bullone, diciamo che passava da una parte all'altra. Adesso tipo il cavo faceva passare dentro il tubo, capito? Io lo so, ma va bene, io ho fatto la gamba, la sto utilizzando con la mini Grand Play per le VHF, con lo spezzone di tubo con la gamba, c'è ancora, la sto utilizzando così. Buonasera per Paolo, avanti. No, vorrò entrare, Natalino, riprendi. Tutti muti sono. Comunque della Grand Prix a me me ne hanno parlato molto bene, dice che era una signora antenna proprio. Tanto quella della Lemma, io l'ho provata, ce l'avevo, l'ho avuta parecchi anni e poi me l'avevo venduta a Gelasso di Porto Torres, che aveva la ragazza San Giovanni, e per sentirsi che la stava piazzando. È salito sul tetto, se l'ha smontata e l'ho venduta a lui. Perché poi io non ne avevo più messo perché mi ero rotto le scatole che disturbavo a un'unica persona del palazzo. Stavo sempre rompendo le scatole, allora alla fine mia madre mi ha detto tu lì là perché non devo stare a bisticciare con la gente. Un'altra penna non la potevi provare, perché faceva di meno. No, ma ce l'avevo in macchina, modulavo dalla macchina io. Invece che da casa l'avevo piazzato tutta la stazione in macchina e modulavo dalla macchina, me ne stavo giù sotto casa, tanto è vero che una volta mi sono coricato, stavo modulando e sono arrivati i carabinieri, mi hanno bussato il vetro col mitra, mi hanno fatto assultare, mi hanno puntato il mitra, deve essere che hanno pensato che stavo rubando qualche stereo dalla macchina, qualcuno al pazzo mi ha visto coricato e mi ha visto coricato e pensava che stavo rubando lo stereo dalla macchina, capito, come rinchinato, ha chiamato i carabinieri, sono arrivati e hanno bussato il vetro, cazzo ne ha spanfetto, mi sono preso. Beh, no, non gli avrei detto che eri tu, padrone, se avete chiarito. Sì, poi, meno che se documenti, ho detto cosa ci facevo, lui ha detto guarda, io sono sotto casa mia, non posso stare manco qua. Dice no, perché ci hanno chiamato, ha dato da pensare che ci fosse qualcuno dentro la macchina rubando lo stereo, capito? Come l'hanno vista inchinata, hanno pensato che stava smontando qualche cosa. Adesso ti dai. E infatti, ho visto i documenti, tutto quanto, ha detto vabbè, no, non c'è problema. Ognuno può fare ciò che vuole, interessante che non faccia niente contro la legge e poi può fare quello che gli piace. Certo che sì. Io modulavo, poi aspettavo Natalino, Antonio, tutti gli amici miei e stavamo tutti lì sotto casa, capito? Gaffa, gaffa. Certo che è una bella rottura di scatto, eh. E vabbè, insomma, Antu, se in casa non lo puoi fare, vai dalla macchina, è normale. In casa da me che c'avevo il giambaristo, c'avevo leg in quinto, microfono tunnel più due, la palma, insomma c'avevo una bella stazione, addirittura c'avevo i distorsori, c'avevo un'apparecchiatura che ti segnava la modulazione, si accendevano tutti i led, capito? Quando un'apparecchiatura a parte. Che adesso non l'ho più vista in giro, però molti la mettevano in macchina prima. Avevo degli strumenti, di cose, tutto quanto ho messo tutto in macchina e via. Ma ormai non avevi messo una mano quando c'era una Grand Prix? Ah, non lo so, allora si usavano molto le Grand Prix e andavano alla grande, quasi tutti c'erano la Grand Prix. Poi sono usciti Firenze 2, tutte quelle lì, Mantova, Firenze 2, la Stardaster, ne sono uscite tante. Non ce n'è più in giro quando sento di quella Firenze 2. La Firenze 2 era buona come antenna, era lo stesso tipo la Mantova. Firenze 2, Stardaster, ce n'erano tante di antenne. Ma la Grand Prix ti dico che andava bene, io l'ho veduta a Gelasso, poi l'aveva piazzata la ragazza e sentiva bene, l'aveva piazzata, gli ha dato una pulita, l'ha piazzata di nuovo e l'avevo veduta anche bene, là, perché era tenuta bene, io le avevo messo la vasellina sopra e tutto quanto per non rovinarsi. Praticamente avevo messo anche il tubo per l'acqua, il coso di muto per l'acqua ci aveva. Nel muto infilato nella radiale centrale che faceva defluire l'acqua di modo che non andava sul radiale. Ecco, va bene. Già me ne ho parlato bene, che sono antenne buone. Comunque, dopo sono uscite le mappe sono ottime come antenne. Però ho visto che ce n'è anche qualcun'altra che è la Superlemme, ma è vista là. No, Antu, come la Mantova non venne a futi lì. La Mantova è unica. Adesso come adesso non ce n'è che per la 27 che superano la matto. No, perciò non è buono già. Spiegami perché tutti hanno la matto adesso. Anche perché costa anche di meno. No, no, perché chi ha preso altre antenne, tipo Stella, roba del genere, non si è trovato bene come la matto. Sì, vanno bene, ma non a livello della matto. Questo perché non ci sia un'altra antenna che sia lì con le gente di su. C'è sempre magari qualcosa che costruiscono dopo, magari, che riescono a trovare il metodo per farla migliore. Ci hanno tentato in tanti, però a quei livelli lì non venne. Ma dove viene prodotta in Italia? A Mantova. Beh, si chiama Mantova per questo. Perché che Sigma? Eh? E che Sigma? Dici della Sigma la Mantova. Sigma sembra un nome inglese, sono prodotte in Italia. Nome inglese. Sono italiane come te. Io avevo anche la Sigma DX in macchina, già che ha fatto un buon palo. Era in retroresina bianca. Ah, sai quanti DX ho fatto con questa antenna? Era a livello di Turbo 2001. Non è buono. Adesso facciamo ritorno un po' a Fabrizio che è in parcheggio. Mi preoccupa, adesso c'è un altro. No, no, l'antenna, la Mantova, poi l'ho fatto là. Quando c'era la Mantova, poi la città c'era la Firenze 2, era buona. C'erano parecchi, andava bene. Poi hanno cercato di imitare, poi era uscito, mi sembra, non so, mi c'era della RAM, un volume strano, con un sacco di radiali attorno, e quella ne usciva di parecchie, però era antenne mediocre, capito? Però la robustezza della Mantova non ce l'aveva nessuno, era buona, era ottima, la faceva collare in tante frequenze, era ottima, capito? Difficilmente avrei trovato una Mantova che si spezzasse roba del genere. Stai dicendo la Stella, quella che ci sta più da via. Ah, mi sembra la Stella, ella. Cazzo, ancora senza non più ne usciamo parecchie. Però a livello di Mantova 1 non ce n'è. Se tu hai tratti bene di fare quei lavoretti, non ce n'è. Io l'anno scorso l'abbiamo scesa con un mio amico che c'era a casa vicino a me giù in campagna, ma tipo solamente c'era 30 anni sopra, capito? L'abbiamo tolto perché lui quando l'abbiamo passato abbiamo messo nelle aggiunture delle fascette, le abbiamo messo il grasso e poi abbiamo tutta la volta con un lato vulcanizzante. Lo stesso abbiamo fatto per tutte le cose dove si potevano oscillare. Beh, l'abbiamo tolto dopo 30 anni, l'anno scorso l'ho pulita, abbiamo svitato tutti i gradini. Cazzo, si comportava qua caldo affatto. Si uscivamo e si spezzavano. Nulla, sembrava cazzo, tolta dalla scatola. L'abbiamo uccidata con un po' di carta vetrata fine, un po' di olio, e cazzo è uscita lucida. Lucida, sembrava dalla scatola. Io invece la lucida, con la radaccia e la lucida. Beh, anche quello, per fare così, lo facevamo, eravamo a carta vetrata fine, con un po' di olio, così, e poi passata la traccia usciva lucida. Poi molte volte l'ho fatto con la pasta brasile, dipende, al momento eravamo con la roba lì, ma uscita lucida. Perché io ho sempre detto, una pasta non deve fare questi accorgimenti in modo sì che lucido non entri dove non deve entrare, altrimenti, cosa succedeva? Andate a svitare i dadini del radiale e si spezzavano bene. Allora usare il trappo, un casino, capito? Ma ci fai i piccoli accorgimenti. E beh, come tutti ce lo fanno quegli accorgimenti lì. Penso che non ce ne sia uno che abbia perfetto l'antenna, che abbiamo messo un altro vulcanizzante dove ci sono gli innesti, dove si avvita, eccetera. Tutti ce lo fanno, mascherato. Cara, e chi non lo fa ce la butta via. Ce l'ho messo. Tutti l'hanno messo, quanto? Lo mettono tutti perché io l'ho messo addirittura dove c'è l'attacco del PL, aveva avuto tutto il PL e il nostro vulcanizzante, in più l'ha imbrattato tutto di grasso, di vasellina, tutto attorno, però quello lì poi va col sole, si scioglie, diventa olio e quindi cade, però per un po' di tempo dura. No, io l'ho messo solo il vulcanizzante, l'ha preso l'altro sopra. E infatti si fa così. anch'io ho fatto così, ma non sei isolante e poi piano piano si è volatilizzato. No, oh, io sto bene intero, la isolante è rotto, io ho messo. Nero, tutto nero. Ma non vulcanizzato è nero, forse. Credo di avere anche un po' esagerato, ma non è, ho esagerato sì, ma però sono a taglierina, lo taglio quando devo chiudere. Le voglio mettere la prigionata e rosso. Cioè con quello, portata rimane la sala per un buon corruggio. Nella matta va quello che si usa, è l'attacco del piede. Si usa sempre quello, si fa tutto ruginoso. Io infatti la finta non è stringo, io stringo a mano. Cavaga, ma è beh. Non si stringe con la pinta, si spacca il piede, come è successo a me. L'abbiamo detto con la pinta, si è spaccata, trovava qua dentro, è entrata tutta dentro il cavo, un casino ha fatto. C'è la tua mano va? E io. Non si stringe mai, si stringe a mano. Si stringe con la, neanche tanto forte, si stringe giusto, bene. Perché se tu lo stringi anche forte, poi è un casino toglierlo con l'ossidazione che mette. Ciao. Sì. Fatto la mattina uno. Giù da me. Gli ho messo questa bella che tirava quel connettore in plastica, no? Poi la facevo qui, una volta attaccato il PL, lo mettevo proprio a fila, e poi lo riempivo tutto di grasso, capito? Il grasso, non è grasso meccanico, lo riempivo pieno. Allora mi buttavo per 30 anni, e la luce. Io invece l'ho tutto quanto vulcanizzato, dove c'è attacco del piede l'ho tutto vulcanizzato, e dopo gli ho messo in grasso di vaselina sopra vulcanizzato, in modo che non entri acqua. Sì, ma fa che quello che ho fatto prima, ti giuro, era lucido, sembrava che avessi messo cazzo il giorno stesso. E poi dopo sono piccolezze che devi fare, ma ci metti 20 minuti più a piazzarla. Però se quando la smonti, me la smonti senza fare danno, senza usare il trapano, una roba del genere. Ma io sai cosa ti dico, una volta che la smonto la metto nuova, non è che tocca pulirla a fare, prendo la proga e la metto nuova. Vabbè, quello possiamo mantenere il cazzo, ma quando c'è la mantova uno che cazzo, quindi sono appentati un po', la lucide è come nuova, mica cambia, a meno che non parli di una lampa, allora è diverso, però un'antenna che è indistruttibile, si dice questi accorgimenti, la lucide un po', quella ricchiata va sempre, è indistruttibile. Ma se ti dura 30 anni, dopo 30 anni abbiamo voluto giambare una borsa, no? Ah, sicuramente, però non è detto che no, cazzo l'antenna che ti ripeto, ho fatto una lucida che sembrava cazzo tutta la scatola, lucida, perfetta, ripiazzata e sta ancora andando. Ma giù ce l'hai la mattova? Cappa, ce l'ho giù. C'è un mio amico, c'è vicino, sarà da me, allora sarà un 10 km, lui è proprio quasi a pochi passi dal mare, io rimango tutto in collina di lui, però l'abbiamo montata dopo 30 anni, era perfetta, l'abbiamo pulita un pochettino, lucidata bene, ripiazzata, stazionare, senza nessun problema. E poi nella zona di mare dovrebbe usarci anche di più, perché l'area di mare già lo sai che corrode. Cavagava. E vabbè, è stato fortunato. Avanti se ci sei per fatto. Ti mando una scoperta. Cappa. Fate voi. Andare. Che ne va, tanto riprendi. Cappa. Comunque, secondo me almeno ogni 15-20 anni la prendi, la metti nuovo. Almeno hai meno problemi. Guarda, io l'ho ripiazzata, ti ripeto, va sempre bene, senza nessun problema, capito? Cioè, se poi cazzo la vuoi cambiare, prendi la cambio, io ho due nuove dentro la scatola, due nuove mai aperte. Trovo la cambio, però quella mica la butto, la pulisci e la vado anche vado, o te la vendi a pochi soldi, 30 euro, qualcosa del genere, però non è che non va, appena va sempre alla grande, senza nessun problema. Sì, grazie. No, adesso non te ne è buona, già. Poi se la piazzi come la devi piazzare, ma piazzata bene tutto quanto, palo buono, cioè come si deve proprio. Ma la metti, nel 20 anni, ti dura 20 anni sopra e non la tocchi mai. Poi come tubi di alluminio sono grossi, sono spessi, quindi hai una magnazia a salsiglia, quasi ti ripeto, non so che c'è una bielizza di salsiglia sopra, però cappenca, lucidarla, cazzo con la come prima, cazzo allucinante, splendente come i raggi del sole. Sì, è vero, è vero. No, già tornano bene, già vanno bene. La mia non è in alluminio. No, come cosa uso? L'alluminio usa. Tanto va. È alluminio, è cosa vuoi dire, è alluminio. La mia c'è il tubo, non so, non mi ricordo come cavolo, in PVC, boh, non mi ricordo. Non si rovina mai. È rivestito tanto il PVC, ma adesso c'è il rame. Non so cosa ci sia, mi sembra che non so come cavolo si chiama. Comunque è tutta ermetica, tutta completa. E vabbè, comunque la matta ha una storia, la gente che l'ha usata l'ha sempre pubblicizzata, è sempre stata una buona antenna. E ho detto, l'unico difetto che c'ha la maschera è che si usi da dove si attacca il piede, quel quadrato che c'ha dove si attacca il piede. Se tu gli fai gli accorgimenti, molti che se la facciamo, la verniciamo con vernice speciale, quelle usate nelle barche, ma così, piccoli accorgimenti, non si arrugginisce, quelle ti metti in vasellina, roba del genere, o vulcanizzi, oppure dove non arrivi con vulcanizzati, li butti di quel grasso proprio grezzo, no? Ma un cazzo, mi fa niente. Per esempio, la Mantova Turbo c'ha il radiale in cazzo. Dopo un certo periodo sì. Dipende secondo me come è piazzata anche. Dopo un certo periodo so che ne escono i radiali e non ci rimane più quando si passa a vento. Sì, ma i radiali li vendono. Sì, lo so, ma si rompe la vite, mi sembra che tutti sappia la vite, se non mi ricordo male. Invece quell'altra che c'ha Antonio Grote, che è la come si chiama? L'assidio, quella lì invece c'è l'abitatura, come la Grand Prix. Questo è mio amico, aveva anche un altro nuovo, no? Che aveva regalato, poi ci aveva uno, stava in garage e aveva quattro radiali con la punta abitatura ed era di una Grand Prix, sempre la Sigma, non mi ricordo come quella. Cazzo, ha fatto, adesso se voglio fare, cosa ha fatto lì? Ha pigliato il trappolo, gli ha fatto un buchettino giusto, attacca agli altri, e l'ha fatto diventare autoradiale. Come si chiama? Vabbè, ma pure alla fine il radiale sono un piano di massa. Vabbè, tanto era la più ricezione, tanto era una prova che ha fatto lui. Tu pensa che molti radiamatori, e tu li senti, io mi lasciato fare chi parlando, tutti hanno una mantova 1, la loro stazione sul tetto, capito? La utilizzano molto in 10 metri, va benissimo, capito? Oppure gli fanno qualche modifica leggermente e riescono a far andare in frequenza amatoriale, con ottima riuscita di tutto. Se dico, io riesco da spesso, tutti hanno mantova 1, c'è uno che ti cala l'antenna. Mantova 1, e avanti già. Anni. La 5, o la 1 o la 5 si usa. Lo so, vabbè, la 5 c'ha un radiale in più, così è. Esatto. C'ha un radiale in più. Sì, c'ha un radiale in più. Anche la turbo non è male, non è male, 9 dB di guadagno c'ha. Quanti radiali c'ha la turbo? 8. 8? 8. Come altezza la stessa, oppure diversa? Sembra che ci sia qualche centimetro, non me lo ricordo, mi sembra che sia un pochino più alta. Vabbè, sono delle piccole accorgimenti che gli fanno, 9 dB da ragno, 7, però alla fine, cazzo, la nuova propagazione, non so queste, sono fesserie, però nel complesso l'antenna va bene, perché va bene veramente. È vero, poi alla fine non è che c'entri tanto, Tu che consigo cura mamma consigura minore, me. Qualche punto in meno, ma è lo stesso. Sì, poi è questione di vedere, perché ci sono dei parametri da fare, delle formulette, in base alla frequenza che stai utilizzando, capito? Però io stasera stavo ascoltando, se lo sento spesso, un radioamatore, lago di Como, 10 km dal confine italiano, e la stava provando anche l'auto così te la lui. Lo sai con che cosa l'ho fatta? Che cosa l'ho fatta? Ha fatto un tipo una Grand Prix e l'ha fatta con quei tubi, ci sapete i tubi che si sono nelle tende da campeggio, no? Che sono tipo quella mola all'interno? Ci sapete lo sono fatti quella diciamo, l'anima della tenda? Quello lui l'ha fatto. E sentito una volta che c'era uno che l'ha fatto col coso, col cicigiamma. Cururetto ce l'ha fatta. Ci sono le cose da valutare, delle cure da fare, ma c'è la frequenza, sono le misure, è normale, e così per di pure. Però questa qua l'ha fatta con quei tubi per fare lo scheletro della tenda. Dice, li ha uniti, li ha misurati, l'ha accordata sulla frequenza che stava uscendo lui. Ma ti giuro, stava alla 9:20, cazzo, tutti non ci dovevano credere, gente in direttiva arrivava più basso di lui. Per dire che lui ha trovato la situazione giusta. Bisogna vedere se stai sicuro la verità, Guarda, io non è che mi sto ascoltando, ma sicuramente sì, perché poi ho fatto un altro e stavo a parlare, sicuramente sì, non ci guadagniamo un cazzo dietro la fesseria, perché la direttiva che utilizza lui non la potevo utilizzare perché era smontata per pulirla. E lui ha provato a fare questa miniera, può essere, poi dove lui è zona alta, capito? Cioè sono anche noi guidati. Stai facendo? Ne ho visto una su internet che l'ha fatta con bulloni e pezzi di ferro vecchio e dice che assicurava a tutti che rendeva moltissimo. Ma non ti ho capito già, vi siete salvato anche uno. Ah, scusa. Ho detto, c'è su internet, ne ho visto una, autocostruita, fatta da bulloni, però ho visto fotografia, fatta da bulloni, pezzi di ferro vecchio, un cerchiore, cose, ha fatto l'antenna. E ha garantito che sparava un bel, anche da dentro casa. Guarda, un radioamatore deve fare antenna, capito? Proprio fare antenne, telefono, no? Ma dice che io sento sempre radioamatori, non l'ho mai provato, non so se ti ho cazzate. Però gente che prende quelle antenne, che sono antenne ottime, di un'uscita unica, capito? Se vuol dire che dobbiamo fare, quello è il problema, il materiale, tante cose, non è che ci voglia tanto fare, devi sapere, studiarle, c'è quello che magari se l'ha fatto costruita e fa meglio di una direttiva comprata magari pagata 2000 euro. Una passione che ti fa fare certe cose, capito? Se un appassionato le cerca tutte per uscire meglio, eccetera, eccetera. Quelli che se la comprano, sì, non ci mettono di suo niente, capito? È come un amico mio, quando andiamo a pescare in barca, si compra tutti i calamenti già fatti, che gusto c'è? Io con i calamenti fatti da me pescavo più di lui che li comprava già fatti. Lo so, però chiaro, sai cos'è il discorso dell'antenna? L'antenna, riesci a fare un'antenna se c'è tutto il materiale, non devi spendere, capito? Però se poi devi fare un'antenna, una direttiva, una fase cubica, e non c'è niente di comprare il materiale, ti viene a costare il doppio di cosa cazzo di cosa ti viene a costare nuova, cioè comprate negozio, capito? Se tu lo metti sul piano, dire l'ho fatta io, allora è un altro paio di maniche, perché a parità di soldi ti costa due volte di più fare la tua. Ma la fai con materiale resistente, la fai come vuoi tu, eccetera, eccetera. La stessa cosa di un mobile fatto da un falegname comprato. Tu lo sai che cambia, no? Sicuramente, però che è sempre il discorso, se poi uno dice no, l'ho fatta io, non me la fai, cioè non guarda la spesa che ho fatto, è diverso. Però ti ripeto, io ascolto molto, cazzo che arrivati bisogna due tiro la paura, magari quello con un dipolo di cazzo, con un'antenna fatta con pezzi recuperati a quello vecchio, magari cazzo lo schiaccia rispetto a quello che c'è un'antenna pagato medina, capito? Magari quella là così bene veramente. Sì, ma c'è gente che si arrangia anche con materiale che c'ha lui, riciclato, eccetera, eccetera, capito? Si arrangia così. Lo so, tu quando ti sai fare, sai nel furgonetto per fare l'antenna, tutte le misure, in base alla frequenza che stai utilizzando, poi a farla ragazzata, non fece il materiale per l'operazione da tutte le parti, o rame, o puoi beccare magari tubi d'alluminio, dipende, poi se la puoi fare in acciaio, dipende. vedere cosa c'hai per le mani. Infatti non bisogna avere anche una certa esperienza per fare le antenne, non è che sia così facile. Se per questo anche Natalino le fa, escono bene, c'è antenne autocostruite da lui, ne ha fatto una con un viruvelo, fatelo conto, esce bene, tarate tutto. Perché se vuole come vado a seguire, ci sono delle misure da fare, ma se la frequenza dove la vuoi far risuonare. Infatti, bisogna conoscere certe cose, certi valori, certe cose da rispettare, normale quello lì. Ma Antonio ha ragione, c'è un radioamatore che ha fatto l'antenna dalla rete del letto e usciva, insomma magari poi alla fine se come la fai diventa come una loop, cazzo, poi diventa direttiva, perché se l'ha fatta con la una rete di letto, se subito ha fatto l'altro mese e esce alla grande. Sì, perché tanto Riff e Raffa usano sempre quei materiali minimi, anche quando le fanno dalla fabbrica. Magari materiali più scarsini, più fini, capito? E invece tu li puoi usare più mastodontici. Non hai mai visto tu la gente che da cerchioni vecchi di macchina, queste cose, realizza delle cose belline, con ferro battuto, eccetera, eccetera. Ha voglia, capito, lo so, comunque è così, ci sono dei parametri da seguire, sei preparato in materia, puoi fare tutte le materie che vuoi, senza nessun problema, direttive, quali cubiche, di cui, quello che vuoi, capito, poi devi sapere tutte le norme per fare bene, e proprio fare come cazzo vuoi l'antenna. Antonio. Ehi, Gianni. Sì. E così, qualche bello farsi gli antenne. Ma ricordo che su internet ci sono i progetti. Sì, io li ho visti. Ci sono i progetti, ci sono gente che praticamente le ha già costruite, ti dice come farle e tutto. E appunto c'è questa qui che con bulloni, eccetera, eccetera, l'ha costruita l'antenna. E ha praticamente confermato che anche da dentro casa esce una bomba. Aspetta, ma chissà tutto il travaglio che ha fatto via. Io stavo pensando di provarmi a costruirne qualcuna, provare qualche progetto o provare con qualcuno che chi riesce a fare qualcosa, dai, a cercare di costruirne qualcuna. Beh, avanti. Posso usare un attimino, Gianni? Dimmi, fra. Ascolta, ma non hai un controllo di radio? I toni mi interessano. Fa un passaggio lungo, volevo sentire bene. Prova a vedere un po' così se va bene, oppure devo sollevare anche come amplificazione. L'amplificazione mi sembra troppo alta. Ti sembra troppo alta? Va. Bassa appena. Prova adesso così se va meglio oppure è ancora troppo alta. No, se di lusso va benissimo anche come tune, come tutto. Adesso l'ho regolata bene. Va bene così, a posto? Cappa, prima risultava anche metallica come era troppo alta. Adesso è di lusso. Va bene, dai, riprendete che chiudo questo microfono. Cava. Cappa, vai, fra. C'è problema. Riprendo subito. Fabri anche a te. Pierpa. Tu ti sei reso conto, sto parlando con Barra Agricola, l'hai schiacciato. Chi altro? Salvatore. Barra Agricola, avanti. C'è Barra Agricola. Vuol dire che sta lavorando. Stavo parlando, scherzo così, stavo parlando con Salvatore Baragrico, stai facendo un ba. Poi sei intervenuto tu, è stato tutto un miscuglio, dai. Boh, io non l'ho sentito, mi ha chiamato fa che gli ho risposto per Baragrico, non l'ho sentito per niente. Era poco fa, era. Ah, e vabbè, l'ho fatto involontariamente, naturalmente, non l'ho fatto volontariamente. Io mi sto misurando la febbre perché non sto bene. Aia, pure tu. mi ho preso raffreddore, mal di gola e mi sento un bel debole. Prenditi immediatamente qualcosa. Io evito, perché libido io abbastanza dei medicini, è per la pressione, per il diabete, insomma, se ho una farmacia dritta. Lo so già, però cerca di prenderti qualcosa perché è micidiale, è micidiale. Non dico la mia presa, mi sento gli occhi che mi bruciano. Ma deve essere solo questione di raffreddore, però mi sento debole. Scappa. Già mi hai visto già com'era, già. Già tu hai visto. E probabilmente me l'ho preso da lì. Oh già, scusate un attimo, oh già. Scappa, dimmi. Ti ricordi quando l'abbiamo regolato l'altro giorno, mi hai detto solleva l'amplificazione? Eia. Te lo ricordi? Allora me l'hai fatta mettere a 7. Adesso invece è a 3. Però voglio sapere se ha migliorato o ha peggiorato rispetto all'altro giorno. No, ha migliorato, Fra. Perché l'altro giorno probabilmente o che tu stai parlando più vicino al microfono e risulta più forte, questo non lo so se la posizione sia la stessa, però l'altro giorno quando era a 3 era bassa, era troppo bassa, non si sentiva l'amplificazione addirittura. Ok, e quello sono, no, perché gli ho cambiato dei condensatori al microfono e volevo sapere appunto se cambia, no, la distanza è uguale identica, ho fatto delle modifiche ancora. E adesso va bene, Fra, va di lusso. Ma questo è l'MB più 4. Ma l'MB più 5 è lo stesso, Sì, sono uguali. Ehi, andiamo a bene, a voglia. Voglia. Spara. Non do conto che sto usando l'apparecchio grande. Ma va bene, va molto bene, si adegua bene. K, poi vi farò il buco, più tardi farò delle problemi in banda a vedere. E banda, ma mi sa che lo devi abbassare. Di solito si esce con radio normale, ma... Oh, dici sul processore, dovrebbe abbassare. Cavagallo. Mascherados, riprenditela. Mascherato si è andato a prendersi il caffè. Veramente. Cavagallo. L'altro giorno siamo andati al bar della Torretta, scommetti che troviamo mascherato, invece non ci abbiamo trovato. Vabbè. Riprendi Antonio. Mi ha detto che non le può fare qualcosa, ha abbandonato un po', dai. Tattalino, ci sei ancora? Dale. Penso è stato in cantina. Tutti drumiti sono. Sì, la Nina sta facendo. Nina, no. Adesso gli mando uno spot a tutto volume. Non so se ti ricordi, se l'hai mai visto quel pupazzo che usciva su internet, era un gioco, no? Praticamente tu dovevi fissare la posizione dei mobili in questa casa e dovevi dire a chi lo guardava di ricordarci più o meno la posizione, perché poi te la chiedeva. Questo qui si concentrava controllando bene dove era la posizione e poi usciva un pupazzo che lo spaventava. Se l'ho fatta quello di fronte, Riccardo Ragadria. E se ho detto niente, doveva essere Antonio Abrigo che ha fatto niente di ridere a casa. Praticamente questo mostro riempie tutto lo schermo, capito? Praticamente ho detto devi guardare bene, attentamente tutte le posizioni della roba, perché poi ti fa un quiz e ti chiede dove hai messo quel mobile, dove hai messo l'altro, dove hai messo l'altro. Sei stato concentrato proprio, se tu potessi dire, lui ha fatto wow, cazzo, un assurdo si è abbigliato, appunto si è creato. Lo finì il terrore, non deve vedere. Era nel video da Budigante. Bella figura che ha fatto, no? Dice, bastardi, ma avete fatto spaventare. aspetta che apro la porta del cane, va. Sì, perché sai cosa c'è? Che uno si concentra e non pensa che ci sia una cosa del genere, poi di colpo ti c'è questo mostro, ma uaaah! Non gli assurdi, già pensato, gli avrico. Accuditi. Accuditi. È una schiera d'osso. Quando la mettiamo l'antenna sul tetto anche a casa. Se sa come c'è un altro, capito? Questo tipo lascio perché questo fa vabbè anche 45 metri, fa 27 e 45 metri, capito? In tutto lì. Accordato, va bene. Sì, perché ma quella zona dovrebbe essere buona, c'è Mario Masser che c'è benissimo da quella zona lì. Quella zona è buona, è zona aperta, no? Non c'è nessun problema, capito? Chi ha parocci? Avanti, anche tu. Siamo un po' aperto, come me. Anche se è bassa, però già va bene, là. È perché siamo un po' aperto, sì. Questa zona, poi, già si sa che siamo molto aperti. Per i paesi, tutta la città 31, tutti i paesi lì, sei a posto. Ho fatto un giro di calcoli, forse il segnale dovrebbe arrivare fino a Macomerco. No, dipende, magari sì, non so di parlare le cose, magari sì, non so cosa dobbiamo fare, non so. Poi che non ci arriva. E di no, non lo so fino a dove può arrivare, se fino a Campomela credo di sì. Troppo basso, bisogna vedere dove può arrivare, perché ho fatto io qualche calcolo, una persona nei punti arriva fino a Castelsardo arriva, perché l'ho sentito io, gli altri non mi sentivano, lui sentiva a me. Castelsardo è anche diverso, perché a Castelsardo dagli punti c'era a ovest, ed è vicino, lì deve superare tutta la parte di via Milano. Grazie ai ciocchi, roba del genere, più lontano, invece Castelsardo è una cosa lì più aperta, più facile, sicuramente, senza nessun problema. Anche tu lì, da lì dovresti arrivare fortissimo, Castelsardo, Validoria, forse ci fai anche arrivare a Santa Teresa. Perché io ho quello aperto, poi sai come, basta ti sposti di 50 metri, magari arrivi forte, magari è da casa 50 metri prima, magari manco di intendere, dipende, lo sai, no, basta, è come il telefonino, ti sposti 3 metri e non senti, non c'è più campo. Io mi ricordo che quando ero a Lima Delta, vabbè, ero sui 5 piani, arrivavo dappertutto, da Sentino, poi arrivavo anche a Santa Teresa, sono arrivato. Sì, la zona della Gallura. Ci arrivi benissimo, capito? Perché appunto, per dire, se si ha lì tutti magari arrivi per dire la Isola Rossa a 5, magari se sei in alto verso la Grazia dell'Edda, cazzo non ci arrivi lì, perché c'è quella collinetta che ti fa. Dipende, deve avere tante cose. Non è detto l'altezza molte volte non significa niente, altezza diciamo di quartiere, non è tante cose. Ok, avanti già. E poi io per il mare sono abbastanza libero, diciamo che a Claudio l'accompagnavo, però Castelsardo mi sa che era zona d'ombra per me. Fino a Marrica ti sentivo, anche un po' dopo, poi anche nella salita lì di Punta Tramontana ti sentivo lì, invece a Lucca non lo sentivo. Non so qual è il problema, poi magari se c'è l'antenna con un metro di palo, un metro di palo, e la piazza in zona regione Gesù, Giuseppe Maria, ti sente tutta la Sardegna, anche di più. Come Falcone? Per esempio, come Falcone, che ha una piazza con una palazzina per alta sinistra, cazzo, aveva un metro di palo, quel cazzo di antenna, un baracchino da 13 e cazzo lo sentiva a tutte le parti, cazzo, a tutte le parti, e c'è una cosa incredibile. Guarda se abbia avuto un baracchino più forte. Se l'avessi avuto un'antenna cazzo tipo 5-6 metri di palo con un apparato in gas di luce con qualche lineare, sarebbe stato più forte di sempre in assoluto. Vuol dire che lì passava proprio la posizione buona, era il punto buono. Sto dicendo, io una volta l'ho sentito un chilometro e mezzo prima di Nuoro, capito? Un chilometro e mezzo prima di entrare a Nuoro, avevo arrivato a Santiago 5, nessuno ci arrivava lì, ma neanche i grandi di Sassari arrivavano lì. Lui è arrivato 5, capito? Una cosa impressionante. Sì, dipende dalla posizione che dice. Dipende proprio dalla posizione, per esempio quella zona da in giù in poi arriva in quelle zone lì, dipende. Ma lui aveva una zona troppo bella, era, ti ripeto, da affrontati da tutte le parti. Cazzo, una volta in Liguria, cazzo mi è arrivata 5, 6, 7, non ho mai perso, mai. E gente di Sassari che era più alto di zona, non ci arrivava, ma manco per le palle arrivava lui. Sì, è vero, è vero, è vero. Dipende dalla posizione, dall'apertura della zona. Sono fattori stranissimi, eppure è così. Magari trova i canali giusti, e quindi è così. Ma è più progettato per dire, al monte non sarebbe mai arrivato forte come arriva lui. Però è così, io lo sentivo tre parti, sempre che io viaggiavo, cazzo, ma ti sto dicendo, arrivava lui a tutte le parti, e gente forte che usciva con tanti fatti, manco lo sentivo. Sì, non c'è niente da fare perché dipende dalla posizione sempre. Sì, è vero, è molto vero. Io sono convinto che mettendola qua per dire, fino a Castelciardo arrivo bene, fino a Castelciardo. È così, ma non c'è più che sei altezza, sono in alto, sono al monte, sono a Cremonate, non è un cazzo. Magari a Cremonate va bene per una parte, però per l'altra parte non ci arrivi. Come scendi magari in pianura, magari cazzo fai molto bene per il mare. Così va lui era aperto. E poi non è che lui abitava in una palazzina, in una casa di 6 metri, non era neanche una palazzina. Un metro di palo, di manco, e un'antenna di gas con 5 watt. Per ascoltarvi da tutte le parti, è una cosa impressionante. Sì, è vero. Credo che allora, in questa posizione credo che dovrei arrivare a Castelciardo anche in Gallura un po'. Magari nella parte della Gallura lì. Non basta, ma credo che ce la faccia arrivare in questa posizione qua. Fai tutto quanto, fai, capito? Lì, perché non è più aperta, già le riprendi. E vabbè, poi secondo le zone non c'è bisogno manco di lineare, vai bene con un apparecchio normale. Se la zona è buona, altro che lineare naturale è quello, la zona buona, libera, quello lì vuol dire molto. Infatti stavo dicendo Falcone, e cazzo l'antenna di cazzo, era più che l'antenna a 6 metri, perché la casa era alta 6-7 metri, un metro di palo, cazzo l'Ignano non sapeva neanche cosa era, e usciva da tre parti, però immaginate se avesse avuto un'antenna alta 6-7 metri, ha un apparato professionale con qualche con 100 watt roba del genere, è stato più forte di stanza in assoluto. Va a multimode, multimode 3. Io già mi siete salvati. Ha detto che lui c'era multimode nel parco. Era multimode 2 aveva, 120 canali. Però cosa cazzo ci fa? 6 watt, 7 watt. Però usciva forte anche quando era con qualche omologato con 40 canali. Era sempre in forte, no? Era una cosa impressionante, cazzo, ascoltate per fare. Un bel wide. Aveva anche la radio ben forte, usciva bene da tutte le parti, non era bene basso, usciva bene. ehi, sto dicendo, non c'era niente. Tu puoi immaginare se avessi avuto un'antenna più alta, cazzo, con un apparato tipo 100 watt, roba del genere, non c'era per nessuno. Che dire, l'avrebbero sentita anche nel nuorese, ci avrebbe fatto cercare a cazzo anche nuorissima. Se ti sto dicendo io una volta ho sentito l'entrata del numero, un chilometro e mezzo per il numero, è arrivato 5, e gente che stava portando a Sassari, tra l'altro, ma manco lo sentivo. Lui arrivava, impressionante. Cioè, non l'hanno sentito in Corsica, l'hanno sentito da tutte le parti. In Spagna faceva i giocolati a casa di ex, lui si l'ascoltava, tre parti. Cazzo, è un'audio impressionante. Tu pensa che una volta in Corsica sono andato a farmi un giro, cazzo, ho fatto la cosa di aia, ce l'ho mai perso, cazzo, da 7, 8, 9, 7, non l'ho mai perso. E molta gente di Sassari che cantava non arrivava come arrivava lui. Cioè, lui aveva un'arma in più, la posizione. Quella lì è l'unica cosa, quello lì è di linea naturale, la posizione è buona. E diciamo che non c'era manco questo palo così alto nell'antenna, ci aveva pochi metri. E tante volte non vuol dire, se la posizione è buona non ti servono a mettere il palo. È come quello che c'è il palazzo alto, cosa la metti a fare alta l'antenna? La metti in bassa e tutto c'è il palazzo che è alto. Ma loro non la passano a bassa, perché la strada dove abitava lui dovrebbe attività un piano, se ti metti o ti metti la terra, ti aveva un metro di palo e non era a casa di giù. Eppure non c'era per nessuno, lo stile a tre parti, era una cosa impressionante. Un attimo. È così molte volte. Ma se ti sei scelto più di quei conoscono, cazzo, magari io vedo, ma questo qua magari si sono cazzate, magari c'è anche lineare, chissà cosa. Quando poi mi hanno fatto vedere, cazzo, dove abitavo, l'antenna, non ci devo credere, vai che non abita qua. Sì, è molto molto uno incredulo, però è così. Esempio, ciao. È casa bassa, Ma hai visto che è casa bassa? Da tutte le parti arriva, mi tutto sassa, ricopre tranquillamente, ed è una zona bassa. Ehi, presidente, io ho fatto la prova da poco, già, alla rotonda, tu entri alla rotonda Tartarola, in macchina, avevi gli apparecchi, avevo fatto delle prove. Allora, arrivavano dei ponti che da Sassa non arrivano, ma questi ponti arrivano da loro, capito? Dentro Sassa non arrivano, ci sono motivo, anche le antenne grandi, a Piazzamona, quasi dopo il palo centrale della piazza, un po' di fronte al mare, arrivano il segnale, due ma arriva, ti sposti indietro, i primi metri non arriva più, la Sassa è zero. Perché c'è la zona del mare che bippera, quello lì c'è. Sì, ma questo segnale gli va da nuovo, dalla parte opposta, capito? Non è che ti va di fronte al mare. Cioè, quindi in quel pezzo di... E poi una roba di 10 metri quadrati, perché ti sposti a destra, ti sposti a sinistra, non senti più. Quindi stai di fronte alle gradinate e arriva. Cioè, per dire, quindi c'è il canale giusto per quel segnale. Sì, ma basta che farà proprio anche con le LPD. Per dire, con le LPD ti sposti appena non senti più nessuno, poi ti sposti per dire al centro e lo senti bene, forte, così. Io basta che sposti l'antenna appena e sento molto più forte. Allora, poi ho fatto le prove da compagnia mia, allora, con mio amico, sempre questo mio amico radiato, cazzo, parlando, una notte gli facevo, vabbè, guarda, adesso non senti, ma io non sento niente, ma fra, non senti, arriva nove, cazzo, noi arrivavamo dei punti orari dalla Liguria, dalla Toscana, dalle Marche, che a lui non gli arrivavano, capito? Non erano punti amatoriali, erano altri tipi di comunicazione, ma lui non gli arrivava, per dire, ed era la zona mia qua in città, e a me giù mi arrivano 9, proprio un antennino, pensa un po', e lì non arrivano. Basta essere spostati, basta che ci sia un ostacolo, blocca le onde, e rimbalza, è normale, se trova il canale invece passano e ti arriva bene. perché la gente è convinta, sì, abito in alto, lì, tra lì c'è 40 metri, 6 kW, poi magari tu che c'hai un apparecchio normale, con 100 watt, magari hai dei segnali maggiori di suo che sta pompando 2-3 kW, e io ho fatto tante prove, capito? Quello pompando 2-3 kW arrivava magari un segnale più basso di te che sta guidando 100 watt, capito? Però vuol dire che la sua posizione non era giusta per quel tipo di posizione lì, non è detto pompare, una volta lineare, non serve un cazzo, non serve a niente. Beh, diciamo che ti aiuta un po', dai, cioè ti aiuta, ti aumenta anche la radio e tutto, però tante volte la posizione va meglio che avere lineare, senza ombra di dubbio, è una cosa naturale, ci arrivi naturalmente invece che pompare. Comunque 100 watt non è un baracchino normale, cazzo, Fabio, ti voglio correggere. Non è tanto normale 100 watt. Vabbè, ma io sto dicendo una cosa, però il paragone, io molte volte faccio tante prove con un mio amico, che lui ti ripeto abita proprio di fronte al mare, io rimango un po' più collina, capito? Però lui, allora io faccio le prove, no? Lui con la mantova, io con la mantova, uso magari 100 watt e arrivo a un esempio 9, lui per arrivare al mio stesso segnale di 9 esce con 2 kW, capito? Per dire, io esco con 100 watt, lui esce con 2 kW, abbiamo lo stesso segnale, però seguo il progetto, lui è a livello di mare, io no, io sono in collina, per dire, perché se non avessi avuto lineare, sarei arrivato 2. Lo so, a volte vuol dire a volte la posizione in cui si è messo. Per dire, quando io abitavo a Sacro Cuore, lo stesso era molto buona la zona, per Alghero, per Porto Torres, Plattamona, la zona di Paese, tutto buono. Adesso per esempio a tutto Sacro Cuore, andando verso la Palestra Buca, no? quella è una zona buona, per la Liguria, per tutta la Spagna, per tutta la zona lì, e ultima, alla grande. Sì, lo so, perché anche ad Alghero arrivavo 9.5, 9.10 con la Gran Prima, arrivavo bene. E vabbè, c'avevo la in quinto, ma è un apparecchio che non da più 10 fa. Avevo la in quinto, il tarare più da Palmo, e poi quando volevo c'avevo anche il giambaristo accanto. Lo so, anche da riprendere tu, sono già dormenti. Ragazza, chissà se esistono più quelle cose lì, non ci saranno, ma è roba, non ne fabbricano più, no? Sì, esistono, li ho visti su internet, da fabbricarli no, ci sono in vendita, ci sono gli amatori che li avevano e stanno vendendo, magari hanno smesso di modulare per cessate o attività, scrivono, oppure perché magari uno da CBIP sarà di amatori. C'era anche un Galaxy Saturneco e volevo gareggiare per prenderlo, poi ho visto che c'ha un difetto e non l'ho preso più. C'ha i canali che si vedono a metà del display. Ma quello già si può cambiare. Mica è un apparecchio degli anni 70, per quanto sia bello, perché è bellissimo un apparecchio. Io altro non so se tu lo conosci, però se lo vedi te ne innamori, ne ho avuto 3 di quelli. No, adesso non buoni, dai. Un valore quanto? Costavano sulle 600.000 lire in lire allora. No, dico, quanto costano? Quanto costava quello là? Adesso lo danno sui 200 euro. 200 euro. Il valore suo è quello. Ma devi calcolare che sono cose che sono state usate per anni, molti lo tengono fermo, magari è capace che quando lo accendi a pulire le scatole ti partono i componenti. Beh, ma tanto male, con il 200 euro lo compri nuovo. Vabbè, ma è il tipo di apparecchio, è una stazione base, è bello per quello, c'ha frequenzimetro, c'ha l'eco, è completo di tutto, c'ha un bel canale da pilletti, insomma è un bel apparecchio, a me è sempre piaciuto e io sono fissato con quell'apparecchio lì, ma non ne ho mai trovato, cioè uno l'ho trovato buono e l'ho venduto. fatto male, andava anche bene quello lì. Vendi la cosa e poi te ne prendi. Ma c'è Fabrizio, ce l'ha con l'apparecchio, se non mi sbaglio. È l'apparecchio. Poi il coso, il Galaxy, Saturn. No, ce l'ha, quello ce l'ho avuto io. Però non ce l'ho avuto perché quello era un signor apparato. Capito? Un signor apparato. C'era buona, completo di tutto, era una bomba. Se tu gli facevi qualche modifica, cioè gli sapevi fare qualche modifica, era, non ce l'era. Cazzo, era un treno con l'apparato. Me l'ha detto, ce l'ha preso. Non l'hai venduto pure tu. Secondo me era parecchi buoni, non sono da vendere. Ma sai cos'è? L'ho fatto perché era fatto bene, perché in cambio mi ha fatto parecchio, che valeva 5 volte di più, capite? Quindi l'ho fatto per quello, perché il tipo non voleva, ma io ho questo, allora ho fatto l'affare, capito? Non è che, però è un apparecchio a velo. Io lo vorrei vedere come ha fatto. Un giorno quinta mi ha prendere un guato perché. Sì, sì. E tu cosa usi tu sempre di solito? Adesso? Yeah. Sto utilizzando un FM500S della Intec, una malacchina modulata. Yeah. È buono, già va bene. E a voi già che è buono, quello si può fare anche un lavoretto, Fabri. Se forzi il coso dei canali ti dà più canali e ti disegna pure. Lo so, ma io sai cos'è, che essendo omologato in concessione non gli voglio fare niente, lo tengo così, anzi l'unico apparato non ci ho mai fatto niente perché è concessione, capito? Paga, io mi ricordo che un camionista continentale me l'aveva fatto vedere, me l'aveva messo, fatto nella macchina mia, era 34 canali quello lì, e ha preso un fazzoletto, una pizza, mi ha spaccato quella lamella che tiene così i canali e andava oltre, e altri 40 canali in più ti dai. Ovvero? Sì. Cioè, ma come devi farlo? Dall'1 in giù oppure quella di 34 devi forzarlo? Quando arrivi a 34, non devi forzare, c'è una lamella che tiene praticamente e poi tira gli altri canali. Ma tu invece di forzare, rischiamo di spaccare magari la manopola, di spararla, essere un altro, da interno è lo stesso. Beh, lo stesso fa, ma guarda, a me me l'ha fatto e non ha fatto molta forza, ti dico la verità. Ha preso una pizza, gli ha messo un fazzoletto per non rovinarlo e in 5 secondi una tenaglia, non una pizza, e in 5 secondi me l'ha fatto, ha forzato piano piano gradatamente sino a spaccarla, come ha sentito tac, ha detto buon fatto e mi dava un bel canale in più. Sì, ma quanto ti segnala per i canali, cioè capito quello che ti voglio dire, di solito ti segnala. Sì, sì. Da quanto tu? Poi è arrivato da 5, 37, 37, 99 e 40. Mazzia, ma non ti guardare i 40 canali, perché quello non sono tutti sopra i canali, mi sembra che sono 26 sopra e gli altri sono sotto. E vabbè, ma forzandolo così ti dava anche dei canali doppi, capito? Non erano tutti, ti dava anche dei canali doppi. A seconda degli apparecchi, ci vanno bene, a seconda degli apparecchi faceva lo stesso lavoro, gli dava i canali doppi. Perché? Aspetta, oddio, come quanti sta arrivando adesso? Guarda se si mi era aumentato. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I 9 qualche cosa. Tanto a te? A me sei 9, 10. Aspetta, io. Allora, guarda. Ora, guarda adesso come è avanti. Dove va a vedere? 1, 2, 3. Sì, appena dici di 9, 10, dai, sì. Già va bene. Comunque quello è un apparecchio che a me è sempre piaciuto, Fabrizio. Semplice, io ce l'ho un sacco di anni, ce l'ho con l'apparato lì. e poi ti ripeto, in concessione un mio amico c'è una scheda per fargli fare più canali, così noi fichiamo, vediamo più fatti, ma che cazzo, essendo in concessione è perfetto, capito? E me lo mettevo in macchina, avevo un controllo, ho detto, attacca una apparecchiatura e ti fotte, non è che ci vuole tanto per fottere. Beh, è vero, è vero. Che ti stavo dicendo? E poi una bella radio, un bel modulatore per l'apparecchio. Sai io cosa ci mettevo su quella, su quell'apparatura della telemacchia? C'ho un Turner MP2 da Palmare, quello celeste, capito? Lo conosci già? Sì, l'MP2U. No, parliamo più due, questo io è un vecchio perché questo usavamo a fare gli anni che furono. Cazzo, non c'è ancora la scatola originale marca americana. L'MP2, in realtà MP2, non mi ricordo, MP2, con il modello celeste, cazzo, una bomba. Celeste grigio. C'è scritto MP2. Questo non me la ricordo, non ce l'ho neanche qua, ce l'ho giù in campagna, però ti ripeto, come radio era paurosa, cazzerà micidiale. L'ho avuto anche da poco, l'ho comprato su internet, nuovo, l'ho venduto 100 euro, era un bel apparato, e avevo messo la batteria di macchina fotografica da 6 volte, anche se in freccia andava da 7,5, ma non si trovano più quelle batterie lì, perché erano al mercurio, e quella mercurio non le stavo più facendo, quindi mettevo quelle fotografiche da 6, andava benissimo lo stesso. Da me ce la facevo io, perché era da 7,5 la batteria, allora gli ho fatto un attacco all'interno e tutti facevano così, e mi hanno messo la overmorse, la tenevo dietro legata con giù di scotch, capito? Però perché era più morse usciva di più. Ah, la terra gola, non mi piace. Era più pulito di quello che facevo io. Con la batteria 6 volte, con le fotografiche, non si vedeva nulla, ci stava nell'alloggiamento, giusto. No. Queste cose non mi piacciono a me, sono interrogate così. Vabbè, io ti davo così, ma non ti davo sempre. Perché non uscivo questa come mai una batteria così? E che batteria di mettere da 6 volte? Come si chiama? Adesso mi pensa anche di quella pompa ma città mercato, ma come si chiama quella macchina fotografica che sta con la P? Non mi viene il nome. Non capisco, però se non si fosse era supplementato, era una bella come doveva rendere. Rendeva benissimo. C'era scritto anche su internet da quello che me l'ha venduto, era nuovo, anche il filo, tutto nuovo di zecca, dentro la scatola però non andate. C'aveva un graffio, ho tenuto come se ci sono anni tutti. Riprendi dai, che sto pensando una cosa. Ascolta, ma non lo fanno più questo microfono, è ancora in produzione. Lo fanno più, che non bello. E quelli sono microfoni nel 70. Non ne fanno più. Microfoni così, è difficile. C'era anche il tanner più 3 da palmo, lo so. Ce l'ho io. Più 3 da palmo. No. C'è quello da tavolo. Quello da palmo sto dicendo, perché era brutto come estetica, la bombava di cosa male. Da quello da tavola. No, io c'ho quello di tavola. Chiavagava. Ah, non mi viene il nome di quella fotografica istantanea. E qua come si chiamavano? Polaroid, basta, è Polaroid solo quelle che compravo lì. Adesso prova a cercarla, vogliamo ritrovarla anche a batteria. Città mercato le meno. Ma che mercato è quello che sta mangiando? Chi? Mascherato? Quello lì è l'Intec FM500S. Io ho sorteggiato un altro omologato, in questi stati. Il microfono è il suo. Le garra le lingue abbiamo fatto. Che allucinante, sembra amplificato. Perché c'è faccio a fare anche fare chiesa con fianco e altri assistenti. Io sì. È chiarissima la radio. È chiarissima la radio? Sì, sì, io la sento benissimo. Non so cosa sia. funziona molto meglio dell'altro. corsa col colonnello. Il microfono è normale, ma sa che sia un compressore microfonico, ma non è che sia niente di eccezionale, dai. Si chiama compressore, non è proprio processore, ma un compressore. Quello di, però a me piace parecchio quella del PC, molto più salutiamo tutti, una buonanotte a tutti distintamente, Ascoltoni, Fabrizio, Pierpaolo, Antonio, eccetera eccetera, Maccarino, Succè e via dicendo. Buon 144 e buon risveglio per domani, ciao a tutti. Ascoltando, io farò di tutto per mi attaccassero. Sì, andare già, buonanotte, sentiamo le tue. Non svegliate il cammino.